Soffri, Griselda, ancora, sinché giunga per te giorno felice. Soffri, ma già nel core i rimproveri tuoi, le tue querele m'appellano a ragion. Sposo crudele,